Incontri di Gianfranco Fabi. E se poi capissi che tutto quale a prima e come prima mi sentissi inutile, io non ho mai pensato se anche la queste note, con questa giovane voce di Malika Ayane. Buongiorno, buon pomeriggio, buona domenica a quanti ci ascoltano, e buongiorno, buon pomeriggio da Andrea Crespi. Sì, buongiorno, buongiorno Gianfranco. Prima di presentarvi Andrea Crespi, gli chiediamo perché Malika Ayane, questa giovane cantante di madre marocchina, di padre italiano, che ormai è italianissima appunto, perché le piace? Ma c'ha questa voce molto, molto soave, molto, molto soffice, una musica allegra, importante, mi dà una sensazione di rilassatezza e di allegria, no? Quindi ho scelto proprio questa musica proprio perché questa era la sensazione che mi dà questa musica. Una musica che può accompagnare un impegno di lavoro, un impegno certamente importante, quello di Andrea Crespi, che è da qualche giorno il Managing Director di Hyundai Motor Company Italia, che in pratica è la filiale, possiamo dire così, italiana, il branch italiano della Hyundai Motor, che è uno dei colossi mondiali non solo dell'auto. Assolutamente sì, proprio la filiale italiana è l'azienda italiana che sta sul mercato italiano, che distribuisce vetture attraverso la sua rete di concessionarie. Assolutamente rappresentante di un colosso che non fa solo auto, che fa tutta una filiera importante nel mondo della, diciamo, dell'auto. E devo dire che insomma mi accingo a avere questa esperienza professionale sul mercato Italia, anche se diciamo il mercato non è in questo momento, ecco, infatti, facilissimo. Per questo il mercato dell'auto non è tra i più facili. Forse il fatto che Hyundai sia una delle case che è cresciuta negli ultimi anni, mentre le altre sono rimaste stabili o hanno avuto qualche flessione, certamente, ecco, già una base di partenza. Però il mercato è difficile. Mercato difficilissimo. Sicuramente Hyundai ha una proposizione per i suoi clienti una importante, ed è stata anche poi la scelta, il motivo della scelta professionale, il fatto di avere delle proposte vincenti. Negli ultimi anni è stato uno dei marchi che è cresciuto di più grazie a tutto il rinnovamento del prodotto, a un nuovo design. Certo, le condizioni esterne che sono fuori dal mondo dell'auto e nel mondo dell'auto sono estremamente difficili. Il mondo dell'auto, che è stato estremamente penalizzato sotto il profilo di tutte le tassazioni, si sono quasi accaniti contro il mondo dell'auto, senza contare che invece il mondo dell'auto comunque ha un numero di famiglie, non solo per coloro che lavorano nelle case madri e nei costruttori, ma ovviamente in tutte le fabbriche, ma anche nella rete dei concessionari, dove chiaramente poi localmente, certo, questa crisi si riversa. Tante persone che fanno un lavoro molto nascosto, ma che in definitiva è sempre quello poi di servire i clienti per dare la soddisfazione massima quando loro... Certo, collegato al sistema dell'auto c'è tutto un sistema economico diretto, indiretto, indotto, di forniture su forniture, di appunto poi di interventi successivi, che muove sicuramente una parte significativa dell'economia. Ecco, Andrea Crespi, da dove viene? Dove è iniziata la sua... Come mai si è occupato di occuparsi di automobili? Ma io ho avuto sin da piccolo una grandissima passione per l'automobile, anzi ho deciso di credere nel destino, perché in realtà io giocavo sempre da piccolo nelle automobili dei miei genitori, facevo questo come un grandissimo divertimento. Poi un bel giorno ho visto un annuncio, ho risposto a questo annuncio, ho deciso di entrare in una grandissima azienda che era la Ford, che mi ha accolto diciamo in maniera veramente, io dico, ero non l'ultima ruota del carro, ma proprio dietro all'ultima ruota del carro. Ho fatto un lavoro estremamente faticoso, di grande sfida, ci ho creduto, però sono sempre, diciamo, tramite la passione che avevo del mondo dell'auto, sono sempre cresciuto e ho sempre cercato di fare il massimo. Ecco, lei non è certamente anziano, ha 45 anni. anni, quindi non era molti anni fa quando ho risposto a questi annunci, però era un mondo un po' diverso, forse c'era ancora annunci di ricerca di personale. Adesso è un po' più difficile per un giovane appassionato di automobili che dica voglio entrare in un gruppo automobilista. Però credo che la mia esperienza possa servire a chi magari vuole cercare, a chi vuole avere una prospettiva, perché anche allora, quando partì io, non era un buon momento, venivamo fuori dalla crisi poi del 92-93, una crisi non bella per il mondo dell'auto e non dell'auto, quindi non era un buon momento pure quello, non c'era tantissimo lavoro, era un momento difficile, era un momento di contratti a tempo determinato, quindi non c'erano dei rapporti di lavoro stabili che uno sapeva già che faceva 25 anni di carriera nell'azienda in cui entrava. Ed è solo grazie al lavoro e alla passione che poi sono riuscito, diciamo, a guadagnarmi effettivamente quello che ho potuto fare. Cioè la logica del merito, il merito quando uno c'ha passione, c'ha impegno nell'azienda, in certe aziende viene ricompensato, viene premiato. Io sono molto per, più che il merito, nel crederci. Secondo me quello è veramente quello che ha fatto la differenza. Forse un po' banale dirlo, però in realtà, se le devo dire quello che veramente mi sento che fino ad oggi abbia fatto la differenza, è il crederci. E l'altra cosa è mai fermarsi, cioè mai credere che magari uno raggiunge delle posizioni di vertice, nelle posizioni in cui incomincia ad avere una squadra di collaboratori, deve gestire delle persone, e mai pensare che quello è un punto di arrivo e che quindi lì si ferma l'avventura, che poi è esattamente anche quello che ho fatto pochi giorni fa, cioè di ripartire, di rimettermi in discussione, di affrontare una sfida, di cambiare vita, di riuscire. Ecco, cosa faceva prima di essere scelto, nominato e che questo posto di vertice alla Hyundai Italia? Io mi sono occupato, diciamo, di diverse aree nel mondo dell'auto, dall'after sales alle vendite al marketing, e l'ultimo incarico era proprio quello di direttore marketing. Non di Hyundai però? Non di Hyundai, era proprio sempre di Ford. Possiamo anche fare il nome di Ford. Sì, di Ford, assolutamente, perché poi alla fine tutto quello che sono lo devo in qualche maniera anche a loro. Perché la sua carriera è avvenuta in tutta la Ford, in pratica. Sì, sostanzialmente io sono entrato nella finanziaria, appunto, come dicevo, proprio con un lavoro umilissimo. Giravo in giro per l'Italia e poi piano piano ho fatto tutte le posizioni, diciamo, di vendita in zona, sia per il post vendita che per le vendite, fino a poi ad assumere delle posizioni invece di incarico manageriale che riguardavano, diciamo, ovviamente la direzione d'area, poi la direzione di marketing, sia anche lì del post vendita e delle vendite. Quindi sostanzialmente quella è la mia area. Non solo in Italia però? Non solo in Italia, perché ho avuto anche la grandissima possibilità di andare all'estero, nell'headquarter europeo, e questa è in Germania, Colonia, dove ho vissuto 3 anni e mezzo, facendo anche lì delle esperienze di lavoro e delle esperienze professionali e personali importantissime. Ecco, quali sono le differenze maggiori tra una società, magari la stessa Ford in Italia e la Ford nel suo quartier generale in Germania? Ma la principale direi che sono senz'altro le dimensioni. Chiaramente sembra anche qui banale dire le dimensioni. In Italia magari è una filiale, sono poche persone che si riescono a parlare, interfacciare in maniera molto rapida, ma in realtà poi si sfocia anche nell'identificare un metodo di lavoro diverso, perché le dimensioni molto grandi, reparti che si occupano di praticamente 25 paesi in giro per l'Europa, ovviamente hanno bisogno di un metodo per poter riuscire a lavorare e a integrarsi l'uno con l'altro. Ecco, ma il metodo, che può essere quello delle mansioni, uno fa quello che deve fare in una cosa complessa, certamente è utile per far funzionare la mansione, anche l'organizzazione, però gli italiani che ci mettono anche un po' di fantasia forse non... No, assolutamente, ed è il motivo poi perché è interessante questo, cioè il fatto che una grande multinazionale e un grande paese come la Germania poi alla fine chiami delle risorse anche da un paese come l'Italia, peraltro non una cosa banalissima, nel senso che è un'opportunità importante di riuscire ad andare anche in un paese come la Germania a lavorare, e non a lavorare come un ingranaggio, ma anche, certo, a dirigere dei reparti, che non è appunto una cosa che secondo me è molto da sottovalutare. Certo, quindi a dirigere anche dei tedeschi. Bravissimo, sì, io mi ricordo le facce delle persone che alla riunione iniziale, proprio i primi 5 minuti, che mi guardavano un po' perplessi, come dire, ma questo da dove arriva? E invece poi dopo, facendo vedere appunto quello che dicevo prima, l'entusiasmo, il fatto di crederci, il fatto di parlare con le persone, il fatto di comunicare e di applicare, magari anche imparare il loro metodo, abbiamo creato veramente una buona squadra e abbiamo fatto delle cose interessanti, molto interessanti. C'è qualche episodio magari di rapporto con i tedeschi che possa essere così un aneddoto magari? Ma ce ne sono svariati, sia dal punto di vista diciamo della vita poi personale, perché uno, io mi sono ritrovato a Colonia dove, anche parlando diciamo un tedesco scolastico, sì, forse anche meno di scolastico, io lo chiamo il kit di sopravvivenza, quindi ce ne sono tanti di episodi, ma ecco, veramente dal punto di vista dell'esperienza personale me la porterò sempre dentro, perché è un sacrificio, perché comunque uno deve scegliere di prendere, partire e vivere la Germania o comunque un altro paese, però dal punto di vista sia umano che professionale è insostituibile, veramente una cosa che consiglierei a chiunque. Ecco, ma un giovane che voglia entrare adesso in questo 2013, è appassionato di automobili, perché poi nelle automobili sì, è facile anche avere una passione vedendo le corse, vedendo appunto le belle macchine che ci sono, cosa può fare per entrare nel mondo dell'auto? Secondo me deve armarsi di grandissima pazienza, ma deve soprattutto chiedersi se ci crede veramente. Quello che dicevo prima, cioè alla fine il fatto di crederci e il fatto di non fermarsi magari di fronte alle difficoltà, magari di fronte a un rinvio di un contratto, secondo me è l'elemento base, perché io sono convinto che coloro che ci credono, non è che sono convinto perché ho delle convinzioni così fantasiose, è proprio perché lo vedo che le persone che riescono e che avanzano poi da magari essendo entrati come stagisti oppure con contratti a tempo determinato, sono quelli che sanno fare, ci mettono del proprio, che sanno fare la differenza, che magari risolvono problemi, magari quelli più banali, e però danno valore aggiunto. Quindi secondo me è crederci, non mollare mai e insistere, perché queste sono le uniche strade che portano poi a effettivamente a riuscire. Ecco, ma da un profilo proprio aziendale, voi avete prospettive di crescita, di espandere, ovviamente con certi limiti, però avete una prospettiva anche di crescere all'interno del mercato italiano? Beh, sicuramente io non ho cambiato azienda, non sono venuto in Hyundai per fermarmi o tornare indietro rispetto a dove Hyundai stava. Ovviamente Hyundai ha fatto una grossa crescita anche soprattutto nel mercato Italia negli ultimi anni, si è allineata alla quota che fa in Europa, che è circa del 3,5, in Italia adesso stiamo facendo qualcosa come il 3. Questo è stato fatto grazie a un grandissimo lavoro, diciamo, di tutto il team che sta in Italia, ovviamente supportato alla grande dal prodotto, dal cambio di prodotto, sia dal punto di vista stilistico che dalla qualità, dell'allargamento della gamma di Hyundai. E io penso che si possa fare ancora un grandissimo lavoro sul mercato Italia anche in queste condizioni. Ecco, il mercato italiano, a parte Hyundai, è un mercato che è sempre un po' depresso, un po' fiato grosso. Cosa prevedete per il futuro? Ma il futuro, allora, il fiato grosso, devo dire che è un termine un po' così eufemistico, nel senso che voglio dare un riferimento. Proprio senza fiato, sì, diciamo. Veramente senza fiato, nel senso che voglio dare un riferimento. Noi siamo passati negli ultimi 5 anni diciamo da un mercato sopra i 2 milioni, 2 milioni e 3 di veicoli, a qualcosa che quest'anno sarà molto simile a 1 milione e 2, poco superiore al 1 milione e 2. Quindi sono stati persi più di 1 milione di veicoli in quasi 5 anni, quindi è veramente un crollo totale. Dove può arrivare? Quali sono le previsioni? Tutti cercano di dare una previsione, diciamo, di stabilità di questi volumi che stiamo facendo in quest'anno, che appunto dovrebbe attestarsi qualcosa intorno tra il 1 milione e 250 e 1 milione e 3 nelle previsioni più ottimistiche. Speriamo molto che sia così. Se io guardo però ad altri paesi che hanno passato un po' questo stesso ciclo, come per esempio la Spagna, Devo dire che sono veramente preoccupato, perché se non facciamo qualcosa anche di piccolo per poter supportare la domanda, credo che i volumi potrebbero ancora scendere. Anche perché la domanda degli auto è una domanda soprattutto di sostituzione, mi sembra, in questo periodo, e le auto durano un po' di più anche perché sono state fatte meglio negli ultimi anni, quindi uno può rimandare di 6 mesi, di 1 anno, di 2 anni la vendita di auto. Incontri. Note con la voce di Malika Ayane riprendiamo il nostro incontro con Andrea Crespi, che da pochi giorni è Managing Director di Hyundai Motor Company Italia, responsabile di questa organizzazione. Abbiamo parlato nella prima parte della sua esperienza, una sua esperienza che è maturata in anni, degli ultimi anni, soprattutto alla Ford, sia in Italia sia in Germania. Parlavamo anche della Germania, di episodi un po' complicati, anche quando lui è arrivato ha avuto qualche problema di assetto interno nella gestione dei suoi dipendenti, mi sembra, dottor Crespi. Sì, no, facciamo riferimento appunto alla perplessità del tavolo tedesco nel guardare questo manager che arrivava dall'Italia, e della perplessità che c'era nelle facce di questi collaboratori, certo, tedeschi, che stavano lì a aspettare un po' di vedere dove andavo a parare. Che poi è anche divertente, perché insomma è stato bello vedere il passaggio dalla perplessità invece a comunque a un'apertura, un orgoglio, una collaborazione. Hanno capito che poi l'importante erano i risultati, si può fare carriera anche in Germania. Assolutamente sì, la Germania veramente mi ha impressionato come paese da questo punto di vista, un paese sia dal punto di vista, diciamo, professionale che di esperienza, dove uno può vivere, dove insomma ho acquisito tanto, devo dire, veramente un'impressione incredibile dal punto di vista della civiltà, della cultura, della collettività, dal rispetto. Ed è veramente, ahimè, qualche anno avanti alla nostra, abbiamo tanto da imparare. Ecco, in questa prospettiva, alla Ford eravate un po' dipendenti dalla Ford americana, adesso come Hyundai siete dipendenti ovviamente dalla casa madre coreana. Che differenze ci sono tra queste dipendenze di gruppi, di grandi gruppi che fanno parte di grandi corporation? Diciamo la struttura non è poi così diversa, la filosofia un pochino sì, chiaramente devo ancora imparare tanto da quella di Hyundai, e lo sto facendo. Credo che sarà molto interessante entrare nella loro cultura, nella loro filosofia di business, perché di fatto è una cultura e una filosofia di business che si sta rivelando assolutamente vincente in questi anni. Chiaramente la realtà di Hyundai è una realtà nuova, anche, diciamo, una realtà che si sta stabilizzando, che sta crescendo in maniera importante. L'altra è una realtà che si deve continuamente trasformare per adattarsi un po' a quelle che sono le realtà dei certo, vari paesi. Certo, ha avuto anche una certa crisi abbastanza significativa. Ford, come sì, tutta l'auto americana, adesso si sta riprendendo anche grazie all'intervento dello Stato da una parte e all'intervento di manager italiani come Marchionne per la Chrysler. Ma restiamo sulla Hyundai, ecco, non è solo auto. C'è una filiera importante, diciamo, di business alternativi. Uno importante da citare è quello dell'acciaio, dove appunto fornisce tutto l'acciaio che viene poi utilizzato per fare le vetture, quindi insomma un business integrato molto importante, ed è anche, diciamo, una garanzia di forza, di stabilità, di importanza del brand sul mercato. È più facile fare acciaio in Corea? In Italia abbiamo avuto qualche problemi negli ultimi anni con l'azienda. Grossi problemi, devo dire che loro lo fanno, almeno da quello che ho potuto vedere finora, in una maniera, appunto, come dicevo prima, secondo delle regole, secondo delle filosofie di business che sono molto molto accurate, anche sul rispetto dell'ambiente, sul rispetto, diciamo, delle regole. È chiaro che c'è una modalità di fare business molto focalizzata sul raggiungimento degli obiettivi. Se posso dire, anche visto che mi chiedeva anche la differenza con l'America, un discorso anche di, diciamo, di dipendenza dalle varie realtà regionali differente, nel senso che una cosa che apprezzo di Hyundai è il fatto che la distribuzione dei volumi, la distribuzione della quota di mercato, era la dipendenza dalle varie regioni. è effettivamente molto equilibrata ed è anzi uno dei motivi per il quale è stato riconfermato l'investimento in un mercato europeo che uno potrebbe dire anche magari un po' saturo, in difficoltà o diciamo in rallentamento con delle grosse incognite. In realtà un fattore importante è che la Hyundai ha di fatto confermato il fatto di voler entrare in Europa e di voler prendere una fetta di mercato importante. Ecco, quindi, che non vuol dire solo vendere delle macchine coreane, ma costruirle in Europa. Beh sì, impianti europei, c'è anche un impianto in Turchia, un impianto in Cecoslovacchia, quindi insomma una realtà che è non solamente di importare ma proprio di fare business e di apportare anche un vantaggio alla comunità diciamo europea e alle varie famiglie europee, che è quella ovviamente di offrire dei prodotti, dei servizi, anche quello di avere poi un tornaconto anche di business. Ecco, importante. Un'immagine in cui voi puntate molto ovviamente sulla qualità ma anche sul design. Per esempio avete avuto una presenza significativa anche al Salone del Mobile. Al Salone del Mobile sì, abbiamo avuto questa presenza importante in questa installazione che faceva riferimento proprio alla filosofia del design di Hyundai, no? Che poi se io sono sicuro che anche i nostri ascoltatori riescono a capire qual è stato il salto, la differenza nel design degli ultimi anni nel prodotto Hyundai. C'era questa installazione di Fluid Sculpture del design, che è una, diciamo, una scultura basata su dei giochi di luce nel quale proprio riveniva fuori la filosofia del design Hyundai, che è quello, diciamo, di avere questa fluidità di linee ma anche, diciamo, di linee tese abbastanza decise. Quindi un Salone del Mobile dedicato anche all'auto, che è mobile per sua natura, esatto. Tutt'altro che immobile, e che dovrebbe appunto rappresentare anche la capacità del bello. In questo senso dove avete il vostro centro di stile, il centro di design? È sempre in Germania, è il centro ricerche diciamo che sta vicino a Francoforte, ed è importante perché poi uno degli elementi vincenti è proprio il fatto di avere diciamo la capacità di interpretare anche il gusto europeo tra virgolette del consumatore, che credo che sia stato uno negli ultimi anni uno degli elementi vincenti del prodotto. Quindi una, diciamo, un'innovazione, una ricerca di novità di prodotto, di novità di presentare questo prodotto, di novità di movimenti, di linee. Ecco, l'automobile è un prodotto che ha avuto grandissime innovazioni negli ultimi anni, anche se sembra un prodotto che in fondo ha un motore, quattro ruote, una carrozzeria, potrebbe essere in fondo banale. Invece è un prodotto in cui poi anche il pubblico richiede una sempre maggiore dose di innovazione. Non siamo forse esagerando con un'automobile che è diventata anche quasi un ufficio, in cui c'è il computer, in cui c'è la connessione, in cui ci sono i sensori elettronici che fra un po' rendono inutile anche il guidatore? Direi che forse esagerare no, bisogna distinguere, secondo me ci sono due fattori chiave. Uno è quello, diciamo, un po' indotto dalle regole, che per fortuna sono delle regole che vanno a grandissima protezione, o dei pedoni per esempio, che influiscono in maniera importante anche il design delle vetture stesse. Tanto per essere più chiaro, ci sono delle regole base che devono essere rispettate affinché poi l'eventuale impatto in incidenti e di sicurezza, diciamo, con i pedoni abbiano l'impatto minore possibile. Anche perché i pedoni poi sono automobilisti. Esatto, quindi... esatto, assolutamente. Quindi c'è una, diciamo, un'attenzione del legislatore anche dal punto di vista europeo nel mantenere, diciamo, delle regole di sicurezza attiva e passiva che devo dire per fortuna che sono state messe. Poi c'è tutta una parte che invece è di innovazione tecnologica riguardante l'entertainment, riguardante, diciamo, la piacevolezza di stare in auto, che è quella richiesta poi dal consumatore, e credo che lì sostanzialmente l'auto stia facendo quello che avviene un po' al di fuori del mondo dell'auto, cioè di riprodurre quelle cose che oggi siamo abituati ad utilizzare, quelle tecnologie che ricerchiamo in tutti diciamo in la nostra vita comune, la nostra vita giornaliera, di poter avere anche quella facilitazione, certo, all'interno dell'auto. E chiaramente qui la tecnologia e la capacità, diciamo, di adattare la tecnologia all'auto è fondamentale, soprattutto nelle guide assistite, nelle guide di navigazione satellitare, insomma tutte queste cose qui sono delle cose che ormai i consumatori si aspettano. Cosa guida Andrea Crespi? Un SUV, una berlina, una utilitaria? Io guido una fantastica Santa Fe, che è un SUV recentemente lanciato da Hyundai. Devo dire che ho iniziato da lì per poter... Quando era la Ford che cosa guidava? Perché non possiamo parlare solo di Hyundai. Esatto, guardi, ho guidato ovviamente tantissime macchine e mi sono istruito anche lì guidavo una Ford Kuga che era stata appena lanciata, ho piacere di... Quindi un SUV... È una fase SUV questa nella quale sono entrato. Se tra un paio d'anni le chiedessero di trasferirsi a Seul... Questa è un'ottima domanda e devo dire che non posso che riconfermare quello che ho detto prima. Se uno veramente ci crede, non è il posto dove lavora. Se uno veramente vuole prendere il punto in cui è arrivato come il punto di partenza e non appunto come il punto di arrivo e dove di stop, deve essere pronto a andare un po' ovunque. E poi si fanno delle scelte, nel senso che non è detto che si debba per forza sempre spingere, andare affrontare nuove sfide. Uno può anche essere contento e dire va bene, mi fermo qui, ho fatto questa esperienza e sono contento con me stesso. Ecco, la cosa più importante è proprio la piena corrispondenza con la propria coscienza. Uno deve essere a posto con la coscienza e dire va bene, sì, questo è esattamente quello che voglio fare ed esserne contento. Questo è il modo per vivere, secondo me, in maniera positiva tutte le esperienze. Cioè, ho fatto qualcosa per me, ma ho fatto qualcosa per gli altri, esatto. Ho fatto qualcosa per il paese, ho fatto qualcosa per una crescita che è complicata e difficile, siamo in un momento complesso. Si sente anche lei di avere una piccola responsabilità nel cercare di rimboccarsi le maniche e far superare appunto all'Italia anche con questa passione, questo momento difficile. Veramente nel mio piccolo, nel senso che io ce la metto tutta, sento senz'altro la responsabilità dell'organizzazione che guido, nel senso che per l'appunto non è fatta solamente dai collaboratori e delle loro famiglie, ma è fatta anche dai concessionari e delle loro famiglie. E parliamo di numeri importanti. Questa responsabilità è quella che ho accettato e che ho preso e che mi sento, e di certo farò di tutto per portare a compimento questa esperienza nella maniera migliore e dare il mio contributo per la causa, nel senso che secondo me Hyundai su questo può fare ancora tantissimo, può fare veramente ancora la differenza nel mercato Italia. Grazie Andrea Crespi, che da pochi giorni managing director di Hyundai Italia. Buona avventura, in bocca al lupo, buon viaggio, possiamo dirlo. Grazie mille anche a Roberto Scartritti in regia. Vi ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, così come le puntate precedenti di Incontri, può essere ascoltato dal sito www.radio24.it. Grazie ancora ad Andrea Crespi, grazie a quanti ci hanno ascoltato, buona domenica.